Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Ovviamente trasmettiamo da Udine, andremo avanti fino alle ore 21.30, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla iniziale di questa trasmissione, Cazardins Magnetics. Ricordo che siamo su Radio Onde Furlane da Udine in diretta radiofonica anche oggi 5 febbraio 2026. Il programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. E ora andiamo all'ascolto di questa band finlandese, che band che è esistita tra metà anni 90 fino al 2000. Hanno fatto uscire un paio di 7 pollici, tra cui noi ora ci ascoltiamo il primo, uscito nel 1995. Loro sono i finlandesi Injustice System, e No Reality è il nome di questo 7 pollici. Another gun, a thousand new pain. To the front. fight, but you're not scared. I run the world, I do the love. They're scared, they only smile. Eccoci, solo per dire che sì, un saluto naturalmente a tutte e tutti voi in ascolto, anche da parte nostra, mia. Quali saranno gli argomenti stasera da sviscerare, per così dire, sono precisamente due. La prima parte dedicata a dei ragionamenti a partire da una traduzione in italiano di due contributi, la traduzione già di qualche anno fa si chiamava Nutrire la rivoluzione, curata da Porfido, e poi con varie vie di fuga anche a partire da quel testo lì, da quei testi lì, e invece altro spazio dei Zardins Magnetics di stasera dedicato alla una presentazione di un lavoro molto importante, Next Stop Modena 2020, Viaggio tra le carceri, una restituzione, un lavoro proprio, un'opera, nel senso proprio, un laboratorio, curato da Claudio Cipriani, che ha messo in ordine un po' i suoi materiali, i suoi documenti, Claudio Cipriani detenuto, che ha vissuto la rivolta e le uccisioni e la repressione in seguito alle rivolte carcerarie del 2020 italiane, e quindi andremo a presentare, oltre che appunto questo lavoro, anche rilanciando una presentazione che faremo qui dalle nostre parti, qui a Udine, sabato 7 febbraio nel pomeriggio allo spazio autogestito che si trova in via De Rubeis. Eccoci, quindi si diceva, partiremo con questo specie di ragionamento sulla, a partire da nutrire la rivoluzione cibo agricoltura rottura rivoluzionaria. Noi abbiamo lanciato questa puntata di stasera, del 5 febbraio, con una frase tratta da un testo di Kropotkin, che fa, diciamo, delle valutazioni su come è andata l'esperienza della Comune. Nel 1871 la Comune aveva pensato troppo tardi a garantire pane per tutti. Si comprese l'errore agli ultimi giorni, si fece la mensa comunale, ma era troppo tardi. Le truppe di Versailles erano già sui baluardi. Pane, occorre pane alla rivoluzione. E, praticamente, diciamo, era lui scriveva sulla necessità di avere un'idea dell'ordine di cose che succederà alla distruzione violenta dell'ordine capitalista, perché è vero che appunto c'è questa tensione negli oppressi, negli sfruttati, così parte distruttiva, no? del movimento, della manovra, chiamiamola manovra rivoluzionaria. A tal proposito io adesso vorrei fare un flashback, no? Nel senso che in realtà questa l'avevo pensata come conclusione dell'intervento di stasera, ma preferisco prima farvi questa specie di, no, di flashback. Poi ritorneremo subito a nutrire la rivoluzione. È un flashback che appunto ci porta invece a, cioè da Kropotkin andiamo ancora un po' più indietro e andiamo agli anni, praticamente agli anni invece 70, no, dell'Ottocento, in particolare a Sergei Nechaev. Sergei Nechaev è stato un esponente del movimento nichilista russo, nato nel 1847, di umili origini, praticamente, per avere così un'idea, non tutti ce l'hanno, diamolo per scontato, intorno appunto al 1869 si sposta, viene a contatto con alcuni, cioè con degli ambienti studenteschi, si sposta a Mosca e poi parte per Ginevra in cerca di collegamenti, incontra Bakunin. Insieme a Bakunin scrivono Il Catechismo del Rivoluzionario, un'opera insomma molto così categorica, diciamo, breve, dove sono contenuti proprio appunto delle direttive, ecco, che ogni militante rivoluzionario deve tenere presente. Nel frattempo appunto lui aveva fondato questa Narodnaya Rasprava, che si potrebbe tradurre come jacquerie, come appunto giustizia sommaria popolare, e era contro tutte appunto i dottrinari, quelli che parlano tanto, scrivono tanto e poi non concludono niente. In seguito all'uccisione di un suo seguace viene imprigionato, estradato in Russia, e dove muore appunto in una fossa, proprio neanche in un carcere, lo rinchiude in una fossa e muore di scorbuto nel 1882. Da questo Catechismo del Rivoluzionario noi ci serviamo di un contributo che è stato scritto recentemente, insomma, da uno studioso che si chiama che si chiama Erwan Sommerer ed è stato tradotto in italiano da Nigredo, che è un blog, insomma, che traduce varie cose di queste provenienze, di queste così coté, non mi viene altra parola, che si intitola La ferocia del popolo, Nechayev aveva un piano. Allora, appunto, nichilisti nel senso che loro attaccavano, ammazzavano, cioè andavano diretti al punto, insomma, sopprimere chi li sfruttava senza avere preoccupazioni di altro genere, il contrario di quello che sostiene Kropotkin, no? Che bisognava invece avere un'idea guida per poi edificare, appunto, la società nuova, appunto. Ci sarà una rottura, no? Prefigura Kropotkin, però bisogna già avere in mente oggi una vaga idea di come si vivrà nel dopo rivoluzione, nel dopo il momento violento, no? E in questo articolo, La ferocia del popolo, si sostiene un po', ecco, ci si sposta leggermente, nel senso che appunto Nechayev aveva un piano, nel senso non era pura azione. Il discorso è, secondo Nechayev, era appunto una specie di, non chiamiamola ascesi, chiamiamola magari, non so, metodo, o una specie comunque di un saper come comportarsi, che appunto implicava il fatto di non di separare distruzione e creazione, no? Separare bene, ma nel senso che proprio bisognava smettere di pensare a quello che sarebbe seguito alla distruzione. Secondo appunto i nichilisti russi, sarebbe la loro generazione non avrebbe avuto modo, non avrebbe visto quello che sarebbe seguito, ma anche proprio non avrebbe potuto vedere, perché era talmente marcia, talmente degradata la cosiddetta civiltà che li circondava, che loro come compito minimo si davano appunto quello di, a fianco di quelle componenti del popolari che, insomma, che comunque in Russia erano presenti, ripetutamente le rivolte, insomma, dei contadini e degli oppressi russi contro gli autocrati, davano modo di avere una prospettiva, insomma, che permetteva di, appunto, di ipotizzare queste rivolte, di andare al popolo in senso proprio, no? Di essere fianco a fianco col popolo e attaccare gli sfruttatori, e non solo attaccarli, anche distruggerli, no? E questa era la loro preoccupazione unica. Il criterio proprio di misura di questo, della vera rottura che ci sarebbe, insomma, stata, non era tanto una percezione sensibile, ecco, così, abbastanza a sensibilità, abbastanza soggettiva di quello che si sarebbe potuto distruggere, no? Ma proprio il grado di abolizione che loro avrebbero raggiunto, cioè quanta abolizione del vecchio mondo avremmo raggiunto. Allora, questo ci avrebbe restituito se effettivamente c'era stata una rottura, nient'altro. Questo è spietato, insomma, una prospettiva spietata e così disperata anche, no? Senz'altro una prospettiva, per così dire, di pensiero negativo, di pensiero tragico, che ci dà appunto uno spunto. Torniamo velocemente all'analisi che viene condotta su questo testo, Nutrire la rivoluzione, e partiamo da cosa significa, no? Precisamente abbattere il capitalismo, perché bisogna capirsi prima di tutto, fare chiarezza sui termini, quali insomma aspetti vanno superati, per così dire, no? Non è, si sta poco a dirlo, ma è lunga la questione, perché allora cosa bisogna cancellare? Ecco, il mercato, lo scambio, l'accumulazione, la merce, le infrastrutture, i beni, le tecnologie, tutto questo, qualcosa di questo, non si capisce, no? C'è una dimensione appunto che è quella concreta del mondo capitalistico, e invece una dimensione speculativa così nebulosa che è quella invece della prospettiva rivoluzionaria, dicono Clegg e Lucas, no? Sono gli due autori del saggio. E, però guardiamo meglio, no? Guardiamo meglio il problema. Il problema consiste nel fatto che si scambiano effetti con cause. Cioè, andiamo a leggere questo pezzetto. Benché il capitalismo sia davvero, sotto molti aspetti, l'oggetto sublime e orribile che i teorici critici amano far passare per tale, le caratteristiche e le precondizioni fondamentali che lo definiscono sono in realtà piuttosto semplici. Esso si basa sul fatto che la maggior parte delle persone debba vendere il proprio lavoro per un salario, e la condizione per cui questo avvenga è che esse non abbiano già accesso a mezzi di sussistenza propri. Nonostante questi mezzi siano molti e la definizione stessa di sussistenza sia naturalmente variabile, può essere utile, sia da un punto di vista analitico che strategico, concentrarsi su quello che rimarrà un ampio sottoinsieme di bisogni primari in qualsiasi mondo immaginabile, e cioè quello del cibo. Ecco, individuano precisamente appunto l'attacco, ecco, cioè il punto di attacco, il punto di insomma da cui partire per sviluppare questa analisi. E il fatto è che appunto tutti noi che siamo costretti a vendere il nostro forza lavoro siamo stati estromessi già in precedenza, chi ci ha preceduto, i nostri avi, insomma, dall'accesso diretto al cibo. Together, stuck together. Eccoci di nuovo, siamo sempre qua su Zardins Magnetics, giovedì 5 febbraio. Stiamo parlando di questo uscita di Porfido di qualche anno fa, Nutrire la rivoluzione, cibo, agricoltura, rottura rivoluzionaria. Dicevamo del discorso di scambiare gli effetti con le cause, spesso appunto anche a parte i teorici, ma anche così chi ricostruisce la catena, insomma, di eventi storici, oppure chi semplicemente è un fruitore di queste ricostruzioni, diciamo, gli rimane impresso che ad esempio per quanto riguarda la rivoluzione, l'ultima rivoluzione, cioè la rivoluzione agricola, quella che corrisponde che prepara, diciamo, la rivoluzione industriale, no? Quella che per cui insomma 15 secolo nelle aree dove appunto il capitalismo era più, avrebbe finito per spingere di più, ovvero le isole, cioè l'Inghilterra alla fine e i Paesi Bassi, lì appunto ci fu questa introduzione della rotazione, no? A maggese, cioè a foraggio, che comportava appunto questa innovazione tecnica, comportò un aumento della produzione, no? A scuola ci insegnano queste robe qua. In realtà, a ben vedere, andare a vedere più da vicino e soprattutto in un'ottica, cioè con una prospettiva, diciamo, potrebbe essere dialettica definita, no? A veder meglio non è proprio così, nel senso che intanto, punto primo, alla rivoluzione agricola o agraria sia del quindicesimo che quella precedente, quella insomma del basso medioevo, comunque erano state precedute ben prima insomma alla comparsa della scrittura, quantomeno dalla cosiddetta rivoluzione neolitica, ovvero all'origine delle società agrarie. Questa stessa, anche questa, quella neolitica, non corrisponde effettivamente non è provocata da un'introduzione di strumenti tecnologici nuovi. È vero che, non so, adesso sicuramente c'erano delle innovazioni tecnologiche, non entriamo nello specifico, no? Però la questione è un po' più, va guardata in una maniera diversa. Allora, secondo gli autori del primo saggio, che si intitola Le tre rivoluzioni agrarie, furono ben altre cose che determinarono questa svolta. Lo stato tributario, perché comunque le tasse andavano pagate in unità di grano, era stato introdotto il grano e si pagava in unità di misura nel grano, e lo stato pretendeva appunto i tributi. Secondo, la schiavitù. Il grano presupponeva appunto lavori pesanti di aratura e senz'altro anche di raccolta, e questo comportava manodopera, richiesta di manodopera, e automaticamente, essendo anche lavori pesanti, sorgevano malattie, insomma, alcuni di questi braccianti diventavano inutilizzabili, e quindi c'era necessità di avere un serbatoio, diciamo, di schiavi, e per fare questo appunto bisognava avere di nuovo la presenza di uno stato, appunto di una disciplina, no? Le stesse mura, insomma, delle prime formazioni, così, della cosiddetta civiltà, erano proprio mura che dividevano i campi appunto coltivati, ma rinchiudevano anche i coltivatori, no? Che non avrebbero potuto fuggire. così appunto arriviamo alla rivoluzione agricola del XV-XVI secolo. È vero che ci furono le cosiddette enclosures, no? la fine della possibilità di poter fruire di aree comunitarie, no? Di fatto appunto di poter avere delle risorse libere a cui andare a rifornirsi, ma il punto è che queste erano conseguenza di un altro fenomeno, che era appunto la necessità di aumentare la produttività, cioè per rendere più competitivi i propri beni in un ambito, in un contesto mercantile di mercati agricoli più ampi, no? In espansione. E quindi appunto era anche ad esempio certe consuetudini come i canoni d'affitto, consuetudinari, progressivamente si legarono alla variabilità appunto del mercato e quindi andavano appunto di necessità andavano recintate le proprietà e andavano aboliti gli usi comuni, perché appunto poi non si sarebbe capito più quel appunto se quel bestiame andava a pascolare in quel determinato appezzamento, di chi era appunto quell'appezzamento, oppure insomma sì, anche per la questione ereditaria, non essendo più consuetudinario, il canone cambiava se fosse un campo o l'altro, no? Un appezzamento o l'altro. Insomma, per arrivare al risultato finale di questa situazione era che appunto da un lato appunto c'è possiamo dire in ingresso abbiamo la situazione contadina, in uscita abbiamo invece la situazione capitalistica. Quindi questa la ricerca appunto di mercati in cui potersi espandere comporta appunto ricerca di colture in grado di generare più utile, ad esempio, per cui il cotone, ad esempio, in Inghilterra, e non più cerealicole, ad esempio. Secondo, assommare gli appezzamenti per creare disponibilità, no? Approvvigionamenti, riserve da poter gradualmente, insomma, avere sempre a disposizione un certo stock appunto di in questo caso insomma di prodotti agricoli. E dall'altro invece avevamo un'etica, diciamo, di prudente, ecco, il contadino avrebbe sempre prodotto per la sussistenza e avrebbe diviso comunque il fondo con i suoi discendenti, no? Appunto, quindi gli appezzamenti si dividevano sempre di più con il procedere delle generazioni. E infine appunto la trasformazione finale, per arrivare appunto alla rivoluzione industriale, sorge già questa figura di agricoltore capitalista spregiudicato che rischia appunto, sceglie le colture in base a appunto quelle che sono più produttive, e dall'altro lato tende a scomparire la figura del coltivatore diretto e a emergere il coltivatore punto e basta, cioè il bracciante, e quando non c'è più neanche necessità di quello, man mano l'operaio urbano, che appunto urbano perché si sposta mano a mano nei centri abitati. Ma appunto la sopravvivenza durante tutte queste trasformazioni è sempre quella del potere coercitivo, la capacità coercitiva che hanno dall'inizio i primi stati agrari, ma che continua anche con la rivoluzione capitalista, e il tempo libero appunto del lavoratore salariato è immediatamente appunto assorbito cioè rispetto a quella che era una necessità di essere sempre comunque impegnato, no? Impegnata nelle diverse fasi che la natura, no? Sollecita, insomma, in base a quelle che sono le necessità della natura, chi è in una dimensione di sussistenza deve seguire quello che la natura appunto gli offre, no? Se la stagione è buona o è cattiva, o insomma se il terreno è fertile o meno fertile, eccetera. Quello era un essere a disposizione, appunto, fra virgolette, della natura, mentre il salariato invece non ha questo genere di dipendenza così forte, ma però in compenso ha la dipendenza fortissima dal dover vendere la sua forza lavoro a chi gli restituisce un salario che gli basta malapena per sopravvivere, e non ha più disponibilità la libertà di prodursi da sé i mezzi, i beni di sussistenza. Ecco, siamo così sempre alle prese con questo, devo dire, stimolante, anche, cioè, oltre che uno stimolo è anche provocato, insomma, senza letteralmente provocatorio, nel senso che invita, insomma, a mettersi un po' alla prova, no? Rispetto a quelle che sono le pratiche, anche insomma i contesti quotidiani nostri di lotta. Questo Nutrire la rivoluzione, cibo, agricoltura, rottura rivoluzionaria, cura di tre studiosi che collaborano appunto con la rivista in lingua inglese End Notes, si chiamano John Clegg, Rob Lucas, Jasper Bernes. Noi stiamo sempre sul primo saggio, che si intitola Tre rivoluzioni, agricole, andiamo a leggere appunto un estratto. Allora, nell'agricoltura medievale, per ripristinare la fertilità del suolo, si era soliti ricorrere alla pratica del maggese, ma nel XVI secolo, in particolare ai Paesi Bassi e in Inghilterra, è emerso un nuovo regime agricolo, basato invece sulla rotazione delle colture. Tale sistema prevedeva che la semina dei cereali fosse seguita da quella di colture foraggere, senza lasciare a riposo il terreno. Questo poneva due vantaggi rispetto alla fertilità del suolo. Le colture foraggere come trifoglio e erba medica fissavano l'azoto anziché consumarlo e consentivano allo stesso tempo di nutrire gli animali, i quali, producendo concime, fertilizzavano a loro volta il terreno. I contadini, tuttavia, non potevano ricorrere a tale metodo per via del sistema detto a campo aperto, ancora vigente all'epoca, secondo il quale i terreni incolti costituivano una proprietà comune sulla quale chiunque poteva far pascolare i propri animali. Se qualcuno avesse provato a seminare colture foraggere in quei terreni, avrebbe corso il rischio che venissero consumate dal bestiame altrui. Il nuovo sistema richiedeva inoltre un maggior numero di animali, non solo per il pascolo e la concimazione delle nuove terre coltivate, ma anche per sostituire il lavoro umano. Nell'affollato calendario del sistema di rotazione delle colture, l'attività richiesta per ogni acro coltivato aumentava massicciamente, con più animali e terreni da accudire. Gran parte dei contadini produttori non disponeva di queste risorse e poteva contare solamente sul lavoro dei propri familiari e su un paio di animali al massimo. Questa serie di elementi fece sì che la rotazione delle colture venisse adottata soltanto a partire dal XVI secolo, una volta recintate le terre comuni e trasformati i contadini in lavoratori salariati da impiegare in fattorie di dimensioni maggiori, non soggette a maggese, che richiedevano un maggior impiego di forza animale e nuovi strumenti di lavoro. Con l'aumento delle rese per acro e per lavoratore, i contadini, le cui terre erano state ormai recintate, non risultavano più necessari come lavoratori agricoli salariati. Questo fattore costituì il motore per lo sviluppo in altri settori. Con l'aumento della produttività della manodopera agricola, gli ex contadini espropriati migrarono verso le città, andando a formare il bacino di manodopera per il nascente settore industriale. Foraggiati dal surplus di grano e di carne, i villaggi si trasformarono in città. Il punto da evidenziare è che la riorganizzazione della società umana implica una riorganizzazione della natura. I cambiamenti nei rapporti di produzione implicano un cambiamento nelle forze produttive. La tesi dell'incatenamento, invece, sostiene l'esatto contrario. Ecco, questa tesi dell'incatenamento era quella da cui erano partiti gli studiosi, gli autori, e per cui appunto... scusate, siamo già al secondo saggio, Il ventre della rivoluzione, è appunto questa tesi per cui cioè ogni tipo di evento rivoluzionario, di rivoluzione così concreta, nei fatti comporta di ripartire dal livello tecnologico raggiunto dalla civiltà cosiddetta capitalista, no? Per cui ci si trova con l'infrastruttura, appunto, che erano prodotte dal capitalismo, dai sistemi di approvvigionamento, dalla catena energetica, eccetera, eccetera, eccetera. Ma come abbiamo cercato adesso, appena in ultima lettura, di ricostruire questo fenomeno, di andare un po' meglio a vedere come il suo funzionamento, vedete che appunto non è precisamente che c'è un deus ex machina che dice adesso la produttività deve aumentare, cioè il processo è completamente cieco. C'è sicuramente la presenza di coercizione, la presenza da un lato, e da un lato la presenza di resistenze, tendenze insomma a non obbedire alla disciplina del lavoro, tendenze a lavorare poco o tendenza insomma a lavorare ben, a condizione che ci sia un ritorno insomma individuale, no? O insomma al proprio giro di proprio insomma gruppo di affinità, ecco. Detto che abbiamo raggiunto questo livello, c'è questo, anche questo importante concetto di internità, che mette in evidenza sempre questo secondo studio, ovvero cioè si tende si tende a sottovalutare, perché è poco percettibile, il livello di dipendenza del settore agricolo dai sistemi oggi raggiunto, dal sistema presente, agricolo presente del XXI secolo, da tutta la catena, appunto, che dicevo prima, sia logistica, sia tecnica, sia energetica, no? E, dal fatto, appunto, che si è alimentata, cioè c'è un passaggio che ho saltato, ma comunque c'era questo discorso della frattura metabolica, no? Con il passaggio dalla campagna alla città, già Marx e Engels avevano individuato che ci sarebbe stato, insomma, la città era un luogo insalubre, perché era un ammassamento di esseri umani, insomma, con le loro deiezioni inevitabilmente portavano malattia e malessere e viver male, insomma, in tanti, tutti vicini. Invece la vita, insomma, diffusa sulla campagna era una, c'era una specie di equilibrio, perché comunque tutto quel, sì, c'era un maggiore equilibrio, sì, indubbiamente c'è ancora adesso, è innegabile questo, no? Che vivendo in numero ragionevole, no? Si vive meglio e è più in equilibrio col contesto, diciamo, ecologico. E per tornare, appunto, a un equilibrio metabolico si ipotizzava, appunto, e inoltre c'era il dato di fatto che la fertilità del terreno aveva una curva discendente, no? Perché rivoluzione su rivoluzione, che in realtà andrebbero chiamate controrivoluzioni, no? Dice, mette in evidenza questo il Bernes, che sta da cui stiamo prendendo, e gradualmente, appunto, la rotazione delle colture, i foraggi, eccetera eccetera, sfruttamento, la sussunzione reale, per scomodare un altro termine, no, della dinamica, diciamo così, capitalistica, portava all'impoverimento del terreno. Invece un ritorno alle campagne avrebbe riportato una specie di equilibrio, postulavano Marx e Engels. Naturalmente la risposta del capitalismo è stata un'altra, è stata la scoperta, appunto, del processo appunto, per cui si ricava, cioè si ricava l'ammoniaca dall'azoto gassoso attraverso l'utilizzo praticamente di un altro idrocarburo, che è il metano, ma comunque il processo derivato e scoperto durante la costruzione degli esplosivi nella prima guerra mondiale. Da lì, appunto, hanno iniziato a utilizzare questo meccanismo, per cui, appunto, arricchivano con i concimi, con i fertilizzanti di sintesi, i terreni impoveriti. Ma questo cosa, no, ha solo spostato, come sempre, il problema, no? La tecnologia a impostazione capitalista a questa caratteristica, che sposta il problema da un punto a un altro, ovvero l'agricoltura è diventato il settore di attività responsabile per oltre la metà delle emissioni di anidride carbonica, quindi effetto serra e mutamento climatico disastroso, prospettiva di andare verso situazioni ambientali invivibili, no? E, oltre che non più, sempre meno, appunto, sempre meno adatte alla coltivazione di colture per nutrirsi. Ecco, arriviamo un po' alla conclusione di tutti questi ragionamenti. Sarebbero queste, insomma, che un ritorno, cioè la restituzione di un il ripristino di una di una specie di equilibrio tra così società e natura, diciamo così, che poi sono due concetti astratti, no? Nel senso che anche ogni tipo di intervento sulla natura ha un risvolto sociale e viceversa, no? Non è tanto così detto così, no, non si capisce granché, ma comunque il concetto è questo, no? Per uscire un po' dall'astrazione, e il rischio sarà quello appunto di ricadere nel sarebbe quello di ricadere nel in queste così derive socialdemocratiche, nel senso ipotizzare, no, che un coordinamento a livello statale potrebbe provvedere meglio di iniziative invece locali. Ecco, le tesi di questo nutrire la rivoluzione sono che appunto non serve attendere, diciamo, il socialismo nel mondo intero, per andare a schemi un po', no? Il socialismo in tutto il mondo, e conviene invece partire, insomma, senza perdersi, ecco, in speculazioni e diciamo in aree geografiche dove è possibile realizzare immediatamente la comunizzazione, no? E poi mamma sperare, diciamo, che anche altre aree riescano a liberarsi dal capitalismo. Ma appunto la tendenza a ipotizzare soluzioni stataliste in realtà si rivela sempre poco plausibile, nel senso che comunque lo Stato, noi dobbiamo sempre ricordarci, si muove se c'è una prospettiva di profitto, di far profitto. Allora lo Stato si muove, cioè dove è possibile realizzare un profitto lo Stato tutela quelli che vanno a cercare il profitto, altrimenti non è che lo Stato può impegnarsi, cioè ha delle idee, è portatore di idee rivoluzionarie, è una chimera, questo è un abbaglio che, insomma, ripetuti errori nel corso degli eventi storici dovrebbe avere detto qualcosa, insomma. Ma torniamo con questo a dove avevamo iniziato, ovvero al metodo nichilista di Nechaev, e di fatto appunto il discorso è che portano avanti questi autori di questo studio è quello così di andare immediatamente alla pratica, anche perché ci sono varie equivoci anche su certe tesi, insomma. L'internazionalismo è un internazionalismo che si è formato oggi a partire da strutture legate, insomma, in collegamento, ma in realtà come dire di Stato, no? Non sono nella pratica internazionalisti queste tesi qua, nella pratica non sono internazionaliste. E l'internazionalismo è avanzato nella pratica attraverso gli stati-nazione, sulla base di blocchi di potere proletario coordinati a livello nazionale e mediati dal mercato mondiale. La necessaria svolta verso la comunizzazione fin qui descritta contribuirebbe a destabilizzare la nazione e il potere statale ben più di quelle forme di internazionalismo che assumono tali istituzioni come propri presupposti di base. Ecco, la posta in gioco appunto è quella di portare, di riuscire a portare il più possibile il più possibile lontano dal, insomma, il più possibile rendere difficile la rapina, come dire, ecco, il controllo sui sistemi di produzione. Una volta portati a livello locale, sono meno esposti ai meccanismi di espropriazione tipici del capitalismo. Questo, no, il punto chiave a cui bisogna mirare. E rispetto alla questione della tecnica, ecco, per arrivare anche a una risposta, una conclusione anche su questo, il discorso non è così manicheo, no? Cioè di dire, boh, adesso, cioè è diverso, quello che abbiamo detto prima su Nechayev, non è proprio di dire io adesso ricomincio da zero senza utilizzare la meccanizzazione, assolutamente no, la chimica assolutamente no, sto in simbiosi con la natura. Sono anche queste così tesi troppo astratte. Si tratta plausibilmente sarà invece un discorso che una realtà rivoluzionaria farà certamente uso di tecniche e sistemi che erediterà dall'ordine del capitale, ma solo nella misura in cui li troverà efficaci o no alle proprie finalità. Ecco, avrà delle finalità completamente avulse da quelle che sono capitalistiche, no? E quindi le utilizzerà ibridandole con altre alla fine. Ecco, io direi che può bastare per questa sera su questo argomento. Stiamo ascoltando in sottofondo questa band dell'Ohio, Stati Uniti, loro sono gli Slut Bomb. Yeah! Sì, anch'io vi saluto. Allora, a me il compito di presentare l'iniziativa di sabato 7 febbraio allo spazio autogestito di Udine di Via de Rubeis, e cioè la presentazione del libro Next Stop Modena 2020, Viaggio tra le carceri, appunto un libro scritto da Claudio Cipriani, detenuto attualmente a Secondigliano, che nel 2020 si trovava appunto a Modena, che è stato testimone e anche diciamo testimone della rivolta e delle conseguenze della rivolta carceraria, e anche vittima delle angherie dello Stato, e che ha deciso, dopo varie vicissitudini, insomma, di lasciare una testimonianza precisa di tutta questa esperienza, appunto una sorta di ha fatto un'operazione di storia dal basso, diciamo, per introdurre questo, così, questa presentazione, questo invito a partecipare. La farò breve, nel senso che siete tutti invitati a partecipare alla presentazione, in modo che si possa parlare, discutere, leggere, eccetera, insieme. E avevo pensato a però missione fallita, a una breve intervista, erano 3 minuti, di un'intervista alla, come intro, alla compagna Maya T, compagna appunto di Dresda, che è stata ieri condannata a 8 anni di carcere a Budapest per appunto i fatti risalenti al febbraio 2023, quando insieme ad altri, insomma, c'è stato questo attacco ai nazi nella giornata dell'onore, nazi ungheresi, e insomma questa azione antifascista, di attivismo antifascista, è costata cara. E appunto la Maya si trova già in carcere dal 2023, quindi è stata condannata a 8 anni, compresi i 2 anni che ha già scontato. Andrà in appello, vabbè, adesso la vicenda giudiziaria, diciamo, lascia tempo che non importa quello in questo momento qua. L'intervista era significativa, era una breve intervista fatta prima della sentenza, cioè lei non sapeva ancora quale sarebbe stata la sentenza, quindi era in attesa di sentenza, diciamo. E così, insomma, è significativa. Se avete occasione, cioè se riuscite ad ascoltarla, comunque è un'intervista sul blog, sì, sul Manifesto. E è significativa l'intervista, perché appunto lei non si ferma, diciamo, all'aspetto dell'esito giudiziario, cioè dice non so come andrà a finire, di sicuro vorrebbero darmi 24 anni come ha chiesto la pubblica accusa, di sicuro lo Stato è orientato a questa roba qua, però non è finita. Cioè, a me ha colpito perché lei dice non è finita, e comunque andremo avanti, non finisce qui, andiamo avanti, ma proprio non è finita, nel senso che le cose non sono finite. Dice anche adesso verrà anche la primavera, quindi potrò uscire nel cortile del carcere, quindi qualcosa si muove. E poi insomma conclude questa intervista dicendo continueremo a lottare insieme, e questo perché trasmette queste parole, che poi sono anche in un italiano stentato, eccetera, però trasmettono, diciamo, un incoraggiamento che spesso ci viene da dentro, a noi che siamo fuori dal carcere. E chi vive queste esperienze così estreme anche ha la forza, oltre che di tener duro, anche di tirare avanti, quindi anche di trasmetterci questa specie di appunto incoraggiamento a non arrendersi, a non lasciarsi andare, diciamo, al senso di fallimento o di scoraggiamento, appunto. E relativamente al libro di Next Stop Modena 2020, appunto questo documento importante redatto dal compagno Claudio Cipriani, e c'è un altro nostro compagno che è Stecco, che nella prefazione un po' diciamo incita alla stessa cosa, cioè sottolinea l'importanza di trovare la forza, diciamo, di riaggregarsi, di rimettere insieme i pezzi quando magari le cose vanno male e non lasciarsi, cioè avere, diciamo, la vitalità di riprogettare, riassettarsi, ecco, continuamente, no? Non lasciarsi, appunto, disperdere, frammentare, scompaginare e avere anche una prospettiva. Prima è stato citato Kropotkin, appunto, non e questo discorso di avere una prospettiva, una visione, diciamo, che vada al di là del momento anche distruttivo e quindi al di là anche della rivolta e di tutte le anche della rivolta super spontanea, ma non lasciarsi, diciamo, annichilire dal susseguirsi degli eventi. Anche Stecco incoraggia e sì, parla in questi termini nella sua prefazione, dice dell'importanza di questo aspetto. Nel libro c'è, visto i tempi che viviamo e anche, appunto, sì, il susseguirsi di azioni repressive dello Stato e anche il susseguirsi di azioni di devastazione e saccheggio come le Olimpiadi Milano Cortina, cioè il massacro praticamente generalizzato dell'ambiente e anche il massacro sociale considerando i cantieri, a quello che c'è dietro i cantieri, allo sfruttamento del lavoro, all'espropriazione delle persone, paesi interi che sono sotto, praticamente paesini del Trentino e eccetera, che sono praticamente presidiati, cioè militarizzati a causa di queste Olimpiadi, che non hanno più nemmeno l'autonomia di muoversi all'interno dei loro territori e prezzi che salgono a livello spaziale nei vari luoghi dove toccati da questa merda di evento e appunto pranzi di gala degli assassini internazionali e sì, appunto in questo momento, insomma, particolare, appunto suoni, squilli di trombe di ogni tipo, insomma, per una per un irrigidimento dell'ordine sempre più feroce. E viene detto nel libro Next Top Modena 2020, c'è questa frase che secondo me è calzante, e si parla del pacchetto sicurezza, cioè della legge 80 del 2020, di giugno 2025, no? Che introduce, adesso ormai è quasi superata da ulteriori strette liberticide, ma in questo pacchetto sicurezza, appunto, vengono introdotti questi nuovi reati, no? Una ventina, adesso non ricordo il numero preciso, comunque un casino di nuovi reati. E appunto ci viene detto, da un lato, questi nuovi reati mirano a colpire situazioni reali di resistenza. E quindi, vabbè, in primis, in maniera importante, anche tutte i tentativi di rivolta e di anche proprio affermazione dei propri diritti base, diciamo, di vita all'interno delle carceri e in generale delle istituzioni totali come anche i CPR. Quindi nuovi reati che da un lato mirano a colpire situazioni reali di resistenza e dall'altro servono all'apparato statale per distorcere la realtà dei fatti secondo le proprie finalità repressive contingenti. E questa distorsione della realtà dei fatti la vediamo appunto tutti i giorni, l'abbiamo vista per il 31 gennaio, quello che è successo a Torino, questo macchinario mostruoso, infernale di distorsione dei fatti, con questo video di pochi secondi estrapolato da tutto un contesto di precedenti pestaggi che comunque sono consueti, non è una novità, da parte delle forze della repressione. Appunto, tra l'altro, brevi secondi di video girati diventati virali direttamente girati da Crosetto, così risulta. E comunque questo discorso, insomma, della, dell'utilizzare, diciamo, del trasformare ogni forma di senso, rabbia e rivolta in, appunto, in reati e quindi in, in azioni che poi lo Stato va a colpire. E proprio appunto questa cosa che dicevo dello slancio invece verso una sì, verso uno slancio nel non fermarsi, nel non rimanere, diciamo, nel buio della cella, ma anche nel senso più largo del termine, e ci viene da dalle parole, appunto, di questo, dalla testimonianza contenuta in questo libro di Claudio Cipriani. Una cosa interessante: lui non utilizza molto, racconta tantissime cose anche della sua vita da carcerato, insomma, ma utilizza molto, cioè racconta sempre con ironia, spesso con ironia, i fatti che gli succedono, anche i fatti più, così, più tragici, più gravi, insomma, più pericolosi anche. Affronta, diciamo, anche le situazioni più pericolose con spavalderia e comunque con ironia. E appunto è interessante perché non è non si rivolge, diciamo, a chi magari cioè considera la realtà del carcere come qualcosa di fantascientifico, cioè lontanissimo dalla vita, chissà che cosa sarà, una roba lontana. Si rivolge direttamente si rivolge direttamente ai potenziali compagni di cella, quindi ci riporta anche a questa non remota possibilità, insomma, per chiunque non accetti il mondo così com'è, di poter vivere una situazione di coercizione di questo tipo, di violenza di Stato di questo tipo, e quindi cioè ci parla da pari a pari, e questa è una cosa, sì, molto, molto interessante e anche molto utile, secondo me. E quindi non vi dico altro, perché appunto ne parleremo sabato. L'appuntamento è dalle ore 17 in poi. Appunto, presenteremo il libro, sarà occasione così di discutere, e poi a seguire dalle ore dopo la presentazione del libro, appunto, ci sarà un momento conviviale, un buffet così, benefit, perché Claudio tutti i soldi che verranno raccolti e che dopo, diciamo, pagate le spese di stampa, tutti i soldi verranno devoluti ai familiari, alle persone care dei prigionieri morti e ammazzati, appunto, nel marzo 2020 tra Modena e le altre carceri dove furono trasferiti, e nello specifico tutti quei familiari che hanno scelto di non accettare, diciamo, l'archiviazione e quindi l'insabbiamento di Stato, e che hanno deciso di andare avanti, cioè di non arrendersi, insomma, di fronte a questa a questo tentativo di ammazzare due volte i loro congiunti. Ci saranno anche, ovviamente, disponibili copie del libro, no? In distribuzione. Certo, certamente. E niente, quindi vi aspettiamo, insomma, sabato dalle ore 17 a Udine, in via De Rubeis. I can't talk the lights are on the baby, I'm not home. Bene, stiamo ascoltando ancora in sottofondo questa band statunitense, i Slut Bomb dell'Ohio, che tra l'altro è una band che esiste da circa 10 anni, ma i brani che noi stiamo ascoltando, comunque che abbiamo ascoltato fino un attimo fa, sono di un album uscito proprio adesso, questo 2026, perché appunto siamo nel 2026 noi adesso, perché è esattamente il 5 febbraio 2026, siamo in diretta questa trasmissione Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì dai studi di radio Onde Furlane da Udine, e ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Allora, visto che siamo agli sgoccioli, insomma mancano circa 5 minuti alla conclusione della trasmissione, prima anche di passare ad un'ultima band, ricordo i nostri contatti, chi volesse scriverci tramite posta elettronica può farlo scrivendo alla mail liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org. inoltre potete anche scriverci in forma cartacea scrivendo ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ripeto, intestare ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Bene, quindi l'appuntamento è per il prossimo giovedì, sempre qui in diretta dalle ore 20 alle ore 21:30, e questa puntata, ma anche quella di tutte le volte scorse, potete andare a riascoltarle nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. quindi ora andremo ad ascoltare, dopo questi Slut Bomb, una band inglese che esiste da circa metà anni 80, gli Active Minds. È una band tuttora attiva, ma noi da un album del 2017 che si chiama The Age of Mass Destruction ci ascoltiamo un paio di brani. Quindi anche salutiamo tutti, ma anche in particolare chi ci riascolterà domani in replica su queste due web radio. Una è Radio Eustachio, che manderà in replica alle ore 11 del mattino di domani, mentre sulla web radio Radiazione dalle ore 17. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì, e vi lascio con questi Active Minds.